Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo quel bacio sono salita in auto e mi sono messa a cercarlo con lo sguardo. Ero convinta di vederlo almeno rientrare verso casa. E invece no, rimaneva lì sul marciapiede come bloccato e continuava a fissarmi. A quel punto ci siamo mossi noi e mio padre, visto attraverso quel finestrino, diventava sempre più piccolo e continuava a guardarmi. Non avevo mai visto uno sguardo così triste negli occhi di mio padre e non l'avrei mai più rivisto negli occhi di nessun altro. Sono Anna, sono un'archeologa restauratrice, sono di Tarragona, in Catalogna, però da un po' d'anni vivo a Palermo, dove ho sposato un bellissimo tusano e niente, stiamo benissimo qua. Io non so se dipende dal sesso dei figli, cioè se, come si dice, il rapporto è privilegiato tra figlio maschio e mamma e tra figlia femmina e padre. Non lo so come funzioni. So che nel linguaggio che personalmente io ho con mio papà c'è un linguaggio abbastanza... Se ha senso dire linguaggio tacito, lo chiamerei un linguaggio tacito, cioè si parla poco, ci si tocca anche abbastanza poco, insomma qualche abbraccio quando ci si vede, quando ci si saluta, però in generale quando io saluto mio padre è sempre un saluto tipo, dai, ci sentiamo. Cioè che non sai mai veramente cosa fare, come dirlo, e che sia un saluto della domenica pomeriggio quando si torna a casa dopo aver pranzato con loro, che sia il saluto per cui ci si vede magari dopo 2 mesi. Ciao. Ecco, oggi si parla di quella cosa lì, del modo in cui si saluta il proprio padre. Proviamo a fare questo gioco, proviamo a immaginare tutti quanti di dover salutare nostro papà, che sia, ripeto, che sia per un mese che si va in vacanza, che sia per un anno che ci si allontana dal lavoro, o che sia anche ciao, ci vediamo domani perché lavoriamo insieme nello stesso posto. Ciao papà, qualsiasi sia il modo in cui lo dite. 349-238-6666, ma anche voi siete qui, @radio24.it. Tra l'altro mi è arrivato un messaggio di una ragazza ascoltatrice che mi chiedeva consiglio su come far scaricare il podcast a suo papà. Cioè, lei diceva che era un pochettino complicato per lui, che è un... come si chiamano quelli che sono neofiti? C'è un termine, no, Tiziano? Un termine inglese? No, per dire quelli che sono neofiti del computer, che non lo... Non c'è. No, analfabeti no. Vabbè, forse non esiste. Comunque suo babbo è in pensione da poco e come molti fanno si dedicano a cose nuove e lui stava imparando a usare il computer. Ascolta il programma, non riesce a farlo sempre e vuole ascoltarlo in podcast. E lei mi dice: "Lui non riesce, scarica i podcast di tutti i programmi del mondo per sbaglio, ma non riesce a scaricare quello di Voi Siete Qui". Io ripeto, dico sempre che è molto semplice, poi ammetto, io non mi sono mai scaricato un podcast della puntata. Comunque non è complicato, vero? Si va sul sito di Radio 24, alla pagina podcast, e c'è un ordine alfabetico dei programmi, giusto? Si arriva a Voi Siete Qui e si scaricano gli ultimi 5. Altrimenti fai una cosa, Carla, si chiamava Carla questa ragazza, Carla, mandalo su iTunes, fagli tu l'abbonamento su iTunes, è gratuito e gli puoi scaricare tutte le puntate. Se hai un modo per salutarlo tuo papà, Carla, anche tu, 349-238-6666, oppure Voi Siete Qui, @radio24.it. sul profilo Facebook Barbara mi scrive, ah no, ecco, faccio una piccola introduzione perché sono arrivati diversi messaggi e si dividono più o meno in 2 categorie. Una è la mia, cioè ciao, che è un po' anche, mi sembra aver capito, quella di Tiziano Bonini, e sono Adriano ad esempio. Ciao Sergio, quella di Sergio non lo capisco. Papà, hai visto Source Code ieri sera? Questo è un modo per salutarlo, cioè parlare di un film anche abbastanza sconosciuto. Luca, dopo 6 mesi all'estero mi viene a prendere all'aeroporto e il mio saluto è: ehi là. Salvatore, a suo padre: oh papà, ti raccomando. Di solito è il contrario. E poi Carman, che non so se sia un nome vero o inventato, non voglio fare la gaffa della nostra ascoltatrice islandese. Ciao papà, ci vediamo presto, mica hai 100 euro da darmi. E poi ancora Ida: io e lui non ci siamo mai parlati, quindi lo saluterei con freddezza. Questo è un caso anche abbastanza raro. Diciamo quindi, i casi sono o questi, molto asciutti, oppure preparatevi il dentifricio e lo spazzolino, perché qui i denti rischiano di cariarsi. Barbara: papà, stai tranquillo, starò bene anche se mi mancherai tanto. E vabbè, questo ancora. Alessandra, non riuscirei a dire niente mentre mi sforzo di non piangere. Giuliana, papà, ti ho sempre amato e ammirato. Non mi hai mai lasciato fare le mie scelte in libertà. Ma non mi hai lasciato fare le mie scelte in libertà. Sempre gravate da cupi pensieri e da decisioni nei miei confronti. Ora ti lascio, per quanto non lo so, il tempo necessario per poter affermare la mia identità, anche di figlia. E ti prometto che sarai orgogliosa di me. Tra lacrime e un po' di carie, 349-238-6666. O anche il profilo Facebook, è sempre quello lì. È Matteo Caccia, io sono qui, il modo in cui salutate il vostro papà. Tutto perché è arrivato un racconto di Anna che parla esattamente di quella cosa lì. La prima volta che ho baciato mio padre è stato per un addio. Un addio prima di un viaggio che per la prima volta mi avrebbe portato via da casa. Era inizio settembre e dentro due ore sarei stata su un aereo che da Barcellona mi avrebbe portata a Roma. Visto che in famiglia non eravamo soliti dimostrare così platealmente, addirittura con un bacio, i nostri sentimenti, capii subito che stava succedendo qualcosa di serio. Lo ricordo perfettamente. Eravamo sotto casa. Dietro di noi c'era la macchina di mio zio già carica con tutte le mie valigie. Mio padre quel giorno lavorava, per cui non avrebbe potuto accompagnarmi. Quindi quel bacio, quel momento fatidico, si svolse lì, proprio sul marciapiede. Mio papà è una persona dolcissima, diciamo che era manuale con insomma il complesso di Lippo, con il rapporto con lui, perché la tipica persona, il tipico padre che ama e non ama un no per sua figlia e lo ricambio in tutti i sensi. Io avevo 21 anni ed ero ovviamente eccitata per il mio viaggio e come tutti i 21enni ero incosciente. Eccitata e incosciente, un binomio che non mi fece accorgere del cambiamento del viso dolce di mio padre. I suoi occhi verdi e cristallini che inseguivano il mio viso si ghiacciarono. Il suo corpo si fece rigido, quasi di pietra. Dopo quel bacio sono salita in macchina e mi sono subito girata per cercarlo con lo sguardo. Ero convinta che lo avrei visto voltarsi e tornare verso casa, invece no, era ancora lì, fermo e immobile sul marciapiede, come bloccato. A quel punto però ci siamo mossi noi. La macchina di mio zio partì. Mio padre, attraverso quel finestrino, diventava sempre più piccolo man mano che ci allontanavamo. Non avevo mai visto uno sguardo così triste negli occhi di mio padre e non l'avrei mai più rivisto negli occhi di nessun altro. Forse perché solo un padre che saluta la propria figlia può provare quella sensazione. Forse perché mio padre aveva già capito che quel saluto non sarebbe durato solo 9 mesi. Forse perché in cuor suo aveva già capito che non sarei più tornata. E andavo a prendere l'aereo che mi portava a Roma, dove avrei studiato insomma un anno dentro il programma Erasmus, intercambio di studenti. Quindi andavo a prendere l'aereo e lui non mi poteva accompagnare, quindi perciò diciamo abbiamo anticipato il nostro saluto sotto casa. Cose come queste solitamente succedono gradualmente, per gradi appunto. E invece lui aveva già capito. Lui sapeva o semplicemente temeva che sarei tornata a pestare quel marciapiede solo per qualche visita, in qualche weekend, accompagnata da un grande valigione con dentro tutte le mie cose. Non mi avrebbe svegliato più la mattina, non mi avrebbe preparato la colazione, non mi avrebbe ritrovata più a casa una volta tornato dal lavoro e non avremmo più fatto quelle nostre lunghe chiacchierate in cui mettevamo a posto il mondo. Stava già cominciando a piangere la mia crescita. Adesso, con la serenità dell'età adulta, capisco che cosa sentiva mio padre 12 anni fa, perché lui mi conosce meglio di chiunque altro. Perché aveva ragione, come sempre, e perché io, alla fine, sono ancora qui. Me voy lejos, ya me despido. L'altro giorno ho visto un bel video su YouTube. Avete presente quei video che ti passano i tuoi amici via mail o su Facebook e tu sei in ufficio, dovresti lavorare, e invece perdi un sacco di tempo a guardare un video di 35 secondi totalmente inutile? Ecco, questo non era assolutamente diverso dal solito. 35 secondi di tempo e tasso di inutilità alle stelle. Dunque, nel video si vede una ragazza in un posto estremamente freddo. Fate conto, la Norvegia d'inverno. Dunque, c'è lei tutta imbacuccata, fuori di casa sua, con un secchio pieno d'acqua in mano. E esattamente come fanno le portinaie quando puliscono gli ingressi dei palazzi, prende sto secchio e getta una secchiata in aria. E siccome in Norvegia d'inverno c'è il freddo che vi potete immaginare, l'acqua si gela letteralmente in volo. Cioè, diventa ghiaccio appena esce dal secchio. Allora, dopo la visione di questo video, già che stavo perdendo del tempo, sono andato a ripassare i vari stati della materia. Un tempo queste cose le sapevo tutte, adesso invece sono dovute andare a controllare su Wikipedia. Ma questo serve, no? Wikipedia. Serve a ricordarti quello che hai studiato al liceo. Insomma, in questo caso si passa dallo stato liquido allo stato solido. E vabbè, fino a qui. Avviene quella che tecnicamente si chiama solidificazione, che è uno dei passaggi del brinamento, detto anche deposizione. E tutto questo mi è tornato in mente grazie al racconto di Anna. Perché è un po' così, no? Che nella vita si cambia, si passa attraverso diversi stati e, come è successo al padre di Anna, le cose succedono di colpo. Tu ti puoi preparare mentalmente, puoi mettere le mani avanti, puoi fare quello che vuoi, ma alla fine i cambiamenti sono sempre repentini. I cambi di stato sono talmente veloci che, anche se ci ho provato più e più volte in quel maledetto video su YouTube, non si vede. Non si vede mai il momento in cui l'acqua diventa ghiaccio. E allo stesso modo io sono convinto che se avessimo a disposizione il video di quel momento lì, quello in cui Anna e suo padre si sono salutati e si sono scambiati quel bacio, noi potremmo guardarlo e riguardarlo un milione di volte, ma non ci accorgeremmo mai di quel cambio di stato. Prima sono in un modo, poi c'è quel momento lì, quello fatidico del bacio, dopodiché sono tutti e due diversi. E anche a me è successo una volta una cosa del genere. Non c'entrava salutare i padri, però c'entrava il passaggio di stato. Avevo 25 anni e avevo un altro lavoro rispetto a quello che faccio oggi. Non ero felicissimo, però andavo normalmente avanti. Come tutti, ogni tanto pensavo che mi sarebbe piaciuto cambiare lavoro, cambiare vita. Come tutti, ogni tanto ci pensavo e poi andavo avanti mediamente felice con il pilota automatico. Poi, un giorno, ho fatto quel piccolo scattino, quel passaggio di stato. Mi sono svegliato e ho realizzato che ero cambiato. Chissà quando esattamente, non lo so, magari mentre dormivo, non lo so, non lo saprò mai. Quello che sapevo però era che in quel momento ero diverso. Per cui ho fatto colazione con calma, parsimonia, mi sono fatto una bella doccia, ho chiamato in ufficio, ho parlato con il mio capo e mi sono licenziato. E mi sono tolto un enorme peso. Per forza. Perché in quel momento ero passato dallo stato solido allo stato gassoso. Si chiama vaporizzazione ed è un passaggio della sublimazione. Ok, la smetto. La smetto e faccio un'altra cosa. Vi consiglio un libro che ho letto quando ero un bambino, una roba un po' shantibaba che leggevo appunto quando ero bambino, di cui mi ricordo solo una cosa, il resto non me lo ricordo. Il libro si chiama Il terzo occhio, è di un tizio che si chiama Tuesday Lobsang Grandpa, che mi ha sempre fatto ridere come nome, non so il perché. Cioè, lo so il perché, ma non ve lo racconto. Il libro racconta, invece, della sua istruzione per diventare un lama tibetano. È stato spacciato come vera la storia, in realtà è probabilmente tutto finto, ma questa chi se ne frega, un altro paio di maniche. Dunque, lui lascia la sua famiglia da piccolissimo e va a vivere in un monastero tra le montagne. Il giorno della partenza, che è definitiva, il padre, è chiaramente disperato per la partenza del bambino, non va nemmeno a salutarlo. Lo spia da distante mentre si mette in cammino per raggiungere il monastero, ma non va a salutarlo. E lui ci rimane malissimo, ovviamente si arrabbia. Poi però capisce che suo padre non l'ha salutato perché né lui né il figlio avrebbero retto a quel saluto. Perché il dolore sarebbe stato troppo forte, insopportabile, e lui non sarebbe più partito. E allora meglio così, senza neanche un saluto. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa a proposito il papà di Anna. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. As long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love you. Come mio babbo ci siamo sempre salutati con ciao ciao, molto formalmente. Ma come vorrei abbracciarlo ora che manca da 9 anni? Chi può ancora rimedi, Stefano? Più o meno questo è il tenore dei messaggi. Quelli che il babbo non ce l'hanno più e quindi hanno quel distacco affettuoso e malinconico nei confronti di una persona cara che è mancata e che danno dei consigli. In sostanza dicono abbracciate i vostri padri, salutateli. E poi ci sono racconti, perdonatemi, messaggi come quello di non so chi, perché non si firma. Io a mio padre dico sempre ciao pere, alouta che vegne e porta pazienza, che in ladino significa ciao pa, alla prossima e cerca di sopportare la mamma. Saluti dalla Val di Fassa. Non so quando l'abbia salutato l'ultima volta il suo papà, la nostra Anna, però lo chiedo direttamente a lei. Pronto, Anna? Ciao, ciao Matteo, come stai? Tutto a posto. Senti, il tuo babbo c'è ancora? C'è, come? Quando è che l'hai salutato? Gli hai detto che facevi questo, che rinonda oggi, che parlavi no. di lui? No, perché mi sarei emozionata troppo, quindi poi con calma, anche se non so se lo capirà molto, quindi poi con calma glielo dico. E magari si scarica il podcast. Esatto, spero che mio papà ce la faccia. Senti, perché tu sei catalana, giusto? Io sono catalana. Sei proprio di Barcellona? Sei proprio di Barcellona? Sono di Tarragona, che comunque dista un'ora, quindi... Però hai questo meraviglioso accento palermitano. Oramai, in siciliano sono, quindi... Da quant'è che ci stai? Ormai 7 anni. Senti, ma a Palermo proprio? Palermo proprio, sì. Cosa ti manca di Barcellona? Cosa mi manca di Barcellona? A parte ovviamente gli affetti cari, no? Gli amici... Mi manca una cosa che non ce ne accorgiamo, la lingua. Mi manca. E quella voglia di indipendenza che avete sempre voi catalani. È quella voglia di indipendenza, giusto. Siamo un po' ribelli, quindi. Senti, invece dimmi che cosa fai prima di tornare un attimo al tuo papà, perché tu fai la restauratrice archeologa. Sono archeologa, sì, archeologa, anche restauratrice, piuttosto. Ma le due cose però non hanno a che fare l'una con l'altra, giusto? L'archeologo fa una roba e il restauratore. Io mi sono specializzata nel restauro archeologico, quindi sempre siamo là. Insomma. Ah, tu fai il restauro archeologico, perdonami, esatto. Quindi ha proprio a che fare. E scusami, riesci a lavorare lì in Sicilia? Ti devi spostare? Devi fare. Per adesso sono stata fortunatissima e tutto sommato ho lavorato sempre vicino a Palermo, quindi... Oh, ma non si sente un minimo di accento catalano, ma niente, Anna. No, proprio questa roba non si... Ah, figurati. Senti, tuo papà, quando è l'ultima volta che l'hai visto? A Natale 8 gennaio. Quindi dove... proprio le feste comandate ti fai tu, torni giusto per Natale, anche, sì. Pasqua? Anche di meno. Adesso a Pasqua? No, non ci andrò, ci andrò a maggio direttamente, quindi adesso passerà un po' di tempo. Senti, ma come sono stati diversi i saluti che sono venuti dopo quel primo saluto lì? Perché il tuo racconto parla proprio di quel primo ciao che vi siete detti, giusto? Quelli dopo, quelli in cui a quel punto lui probabilmente aveva capito che tu ormai eri via, di fatto, no? Sono stati diversi oppure no, questo? Sono stati diversi, però piuttosto diciamo che l'intensità è diminuita, però per dirti l'ultimo è stato un... Mi ha guardato e mi ha detto uffa, ma proprio te ne devi andare. Cioè, non è che lui ha capito, però è diminuito l'intensità dello sguardo, tutto quanto che racconto, ma diciamo che lo nasconde un po' meglio, a parte il primo anno che si è sofferto parecchio, perché quando insomma capiva che quel primo anno che ero tutta wow Roma, certo, il programma era il primo anno, era tipico entusiasmo degli studenti Erasmus, quindi posso immaginare, esatto, che ritornare a casa manco morta. Senti, ma tu sei figlia unica? No, c'è un fratello che vive là. E che vive malissimo questa cosa, che tuo padre è preoccupato solo per te che sei via e non per lui che rimane. Ma lui è bello tranquillo, no? Non ha problemi. Senti, ma invece dimmi, scusami, è una curiosità stupidissima, sì, e banalissima. Che cosa c'è di simile tra la Catalogna e la Sicilia? Che c'è di simile tra la Catalogna e la Sicilia? Ben poco. Poco? Poco. Okay, mi basta questa risposta. Anna, senti, io, stai lavorando in questo momento? No, adesso sono ferma. Però che cosa stai ripulendo? Perdonami, che cosa stai restaurando? No, non faccio niente. Mi dedico all'artigianato da un mesetto, aspettando il prossimo lavoro, perché la nostra vita è così, sempre lavoro a te, lavoro a te. Ok, va bene. Anna, ti faccio in bocca al lupo e grazie ancora per la chiacchiera e il racconto. Grazie ciao. A te. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Allora, mi dicono che le persone... che qualcuno chiama vecchiacci qua, con la cortesia che solo gli over 30 sanno avere, newbies si chiamano quelli che entrano nel mondo dell'informatica oggi, giusto? Tiziano, se vedo Tiziano perplesso io non mi fido di questi newbies, o altrimenti si dice podcast for dummies. Voi siete qui. È un autoscatto quello che si è fatta Anna e che ci ha mandato a Voi siete qui e che trovate sul sito della radio alla pagina di Voi siete qui. È un autoscatto perché non si vede il braccio che si allunga, non si vede nulla. Semplicemente ha la faccia d'autoscatto. È la faccia che ognuno di noi fa quando sa di avere, quando si fa una fotografia da solo, e per lo più è da solo, altrimenti ci sarebbe qualcuno che dice no, te la faccio io. E non sai, una faccia a metà tra il furbetto e il disincantato, quando cerchi di dare il meglio di te. Però ha una faccia simpatica, è una bellissima ragazza, Anna, ha i capelli scuri, ha gli occhi scuri, e potrebbe essere una catalana o una siciliana. 349-238-6666. Detto così suona diverso, hai sentito? Aspetta che riprovo. 349-238-6666. È un cretino. Mio padre e io bastano due parole o sibili, tipo Star Wars, in dialetto milanese. Ma la va? Teste ben? Ciao, ne? Ciao. Firmato Alex. Questa si potrebbe fare una puntata di Destini Incrociati, qua, secondo me. Alex incontra suo papà. Oggi a Destini Incrociati. Destini Incrociati. Lo salutavo sempre con un ciao. Con un ciao ci sentiamo, saluta gli amici della prostata. Solo quando l'ho dovuto salutare per sempre gli ho detto che gli volevo bene. Francesca, questo è un po' il leitmotiv del c'è un po' di distacco e poi quando non c'è più ti senti un imbecille. A mio padre do sempre due baci, si tratti di un giorno o di due mesi, anche se sta bene meglio non rimanere con cose sospese, non si sa mai. E poi è cominciato sto giro di quelli che ci consigliano i luoghi dove andare in tour, e ritorna Giampaolo che dice: confermo di nuovo l'invito a Zocca in teatro e la scuola di musica Massimo Riva. Grazie mille. Poi sono arrivate altre mail che consigliavano di tutto: Cremona, Lodi, qualsiasi. Le stiamo valutando. Abbiamo fatto un grande archivio, lo metteremo poi in questo cervellone elettronico che è gestito da Margherita Ina, e sceglieremo le 5 città in cui andremo a, più che a portare il programma, a raccogliere le storie. Il programma sarà lì dal vivo, e quindi in sostanza io direi, ve lo dico già per il tour: se volete godervi quelle puntate è meglio che veniate a vederle, perché di solito quelle puntate lì a sentirle è un gran casino, però c'è una grande festa quando ci si esce dalla serra qui del Sole 24 Ore. Ciao Alfre, fai a modino, ci sentiamo. Saluto tipico al babbo che vedo una o due volte a settimana. Ciao Filippo da Lucca. Era chiaro che era toscano, perché fai a modino è proprio solo di lì, solo, non so se è solo di Lucca o Firenze, toscana. Caro da Cremona mi scrive: basta buonismo e ipocrisia. E Carlo ti rispondo allo stesso modo: Carlo, basta buonismo e ipocrisia, ti prego. La scorsa estate... questa è un'immagine bellissima. Questo è veramente un racconto in 140 caratteri. E ringrazio Marco per averlo scritto. Anzi, non ce l'abbiamo una base che usiamo per il racconto, perché è proprio bellissimo e racconta un'immagine precisa. La scorsa estate, mentre lavoravo con mio padre, mi fermai ad osservarlo accovacciato davanti all'ennesima porta. Lo vidi per la prima volta vecchio. Corsi in macchina con una scusa e piansi. Da quel giorno ho trovato il coraggio di salutarlo con abbracci e pacche sulle spalle. Marco. Immagino che lavorino insieme, immagino che lavorino a degli stipiti delle porte, o facciano delle porte, perché mi dice: mi fermai ad osservarlo accovacciato davanti all'ennesima porta. Era estate, faceva caldo e probabilmente suo papà era stanco e non so, magari ci vuole un po' di distanza dalle cose per vedere meglio le cose dei genitori. Boh, non lo so. Ciao, ciao, mi chiamo Ivan, ho 30 anni e sono di Vicenza. E io ho paura di una cosa. Non mi ricordo quando ho detto ti voglio bene a mio padre, e ho paura di non riuscire a dirglielo per la mia vergogna. Ti dico questo perché la morte prematura del padre della mia ragazza mi ha fatto pensare a questo. Avresti un consiglio da darmi? Guarda, Ivan, non lo so, mi sembra che il consiglio sia all'interno del tuo messaggio. Primo, non sono Natalia Aspesi, anche se mi piacerebbe tanto ogni tanto essere Natalia Aspesi e dare commenti così. È vero, Salvoloni dice che ho gli occhiali, ma Natalia Aspesi non ha gli occhiali, ha gli occhiali rotondi. Vabbè, insomma, chi se ne frega. Mi piacerebbe ogni tanto essere Natalia Aspesi per dare quei consigli così tranchan a chiunque arrivi, destra, sinistra, uomini, donne, magri, grassi, a tutte. Però Ivan, in questo caso davvero non lo so, ti ripeto, la risposta è dentro di te, ma è forse sbagliata. 349-238-6666, non potevamo esimerci dal leggere un pezzo di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi che parla al padre. Non è un saluto, ma è una lunga lettera, non per niente si intitola Lettera al padre, e l'ha scritta Franz Kafka. Ero un bimbo pauroso, ma ero anche testardo, come lo sono i bimbi. Sicuramente la mamma mi ha anche un po' viziato, ma non posso credere che fosse così difficile indirizzarmi. Non posso credere che una parola gentile, un tacito prendermi per mano, uno sguardo buono, non avrebbero potuto ottenere da me tutto quello che si voleva. Tu, papà, sai trattare un bambino solo come tu stesso sei fatto, con forza, strepito e iracondia. E nel caso specifico la cosa ti sembrava ancora più adatta, perché volevi fare di me un ragazzo forte e coraggioso. Direttamente di quei primi anni ricordo soltanto un episodio, forse lo ricordi anche tu. Una volta, una notte, frignavo perché volevo un po' d'acqua, certo non per sete, probabilmente in parte per farvi arrabbiare e in parte per divertirmi. Dopo che alcune severe minacce non erano servite a niente, mi prendesti dal letto, mi portasti sul ballatoio e mi ci lasciasti per un po', in camicia da notte, davanti alla porta chiusa. Non voglio dire che sia stato ingiusto, forse davvero non c'era altro modo per ripristinare la quiete notturna. Voglio soltanto caratterizzare i tuoi metodi educativi e il loro effetto su di me. In seguito fui certo più arrendevole, ma le riportai un danno interiore. Per molti anni ancora patii pene strazianti all'idea che quel gigante, mio padre, poteva venire quasi senza motivo e di notte portarmi dal letto sul ballatoio. La tua sfiducia negli altri non è pari alla mia sfiducia in me stesso, a cui tu mi hai educato. Naturalmente, nella realtà le cose non possono essere calzanti come gli esempi della mia lettera. La vita è più che un gioco di pazienza. Ma con la correzione che deriva da questa impostazione, si è secondo me raggiunto un qualcosa di così vicino alla verità che un pochettino può tranquillizzarci entrambi e renderci più facile il vivere e il morire. Franz. Sono quelli che chiamano il papà per nome, già prima ad esempio Alfred era il ragazzo di Lucca e adesso Katia da Ravenna chiama suo papà, che si chiama Billy. Beh, immagino non si chiami proprio Billy, sarà un soprannome o un diminutivo. Si chiama Billy comunque il babbo, e lei gli dice: oh Billy, non fare il furbo. Questo è il saluto con cui saluta suo papà. E poi niente, questa roba del tour ormai è definitivamente, cioè, definitivamente sfuggita di mano. Da me, Francesco e Sonia, venite ad Alassio in luglio tra il 7 e il 22, quando volete. Vi prego. Guarda, facciamo così, che magari a luglio non so nemmeno se saremo ancora qui o dove saremo, per cui facciamo così, che magari un sabato o una domenica io, Bonini e Margherita Ina pigliamo una macchina e veniamo ad Alassio, ma così, a pigliarci un gelato. Poi ancora, sono grande, ma quando saluto mio padre o mia madre do sempre un bacio sulle labbra a tutte e due. Ecco, questa è un'altra filosofia. Quella del bacio sulle labbra ai genitori è un'altra filosofia che un po' mi lascia perplesso, ma tant'è, ognuno poi fa quello che vuole. Però non, forse quando sono piccoli bambini, poi quando si cresce, non lo so, vabbè, ma sarà che io faccio un po' di fatica ad essere eccessivamente affettuoso, quindi mi sembrano sopra le righe. Ma chi se ne frega. E poi l'ultimo messaggio che vince il messaggio fuori contesto di oggi è questo: ciao Matteo, venerdì ti mando un SMS in onda, ma sbaglio radio e vinco il premio fedeltà di Radio DJ. Evviva! Altro che destini incrociati, qui direi ascoltatori incrociati. Grazie a quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Roberto Scaltritti dall'altra parte del vetro, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Federico Bernocchi. La storia di oggi era la storia di Anna e parlava di salutare il proprio padre. La storia di domani è la storia di Grazia e parla di riconoscenza. Piano piano ha incominciato a fare progressi e piccoli voli di metro in metro. Una sera il voletto si è prolungato un po' di più e l'uccellino è andato a finire nel prato vicino. Non mi è stato possibile riprenderlo. Ero terrorizzata perché me lo immaginavo alla mercé di qualche gatto di passaggio e non avevo modo di intervenire. Ma forse era arrivato il momento di staccarmi da lui.